Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Mattino. Bene, facciamo una legge dove non si può nemmeno dire che l'omosessualità non rispetta la legge naturale, facciamo una legge dove non si può dire che uomo e donna sono differenti, facciamo una legge dove non si può nemmeno dire che mamma e papà sono due cose diverse, così vivremo finalmente nel più felice dei mondi. Buongiorno Simone, che ti devo dire? Sono un insegnante di sostegno da più di 20 anni. Partiamo oggi, io ho una classe con 7 alunni con certificazione, mancano diversi docenti, tra cui diversi docenti di sostegno. Nel mio ordine di scuola abbiamo ridotto i periodi a 50 minuti per organizzare meglio l'orario, per far quadrare l'orario dei trasporti. Caro Spezia, ieri mio figlio a scuola a giorni alterni, dopo circa 2 ore, 2 ore e mezza che stava lì, ha cominciato a starnutire, forse qualcosa che gli ha dato fastidio, polvere, polline o magari detergenti, disinfettanti che hanno usato. Beh, dopo qualche starnuto l'hanno messo in isolamento e lo siamo dovuti andare a prendere. Viva l'Italia! Gli starnuti. Mamma mia, no, non penso che sia viva l'Italia, penso che in questa fase soprattutto la preoccupazione scatti per tutti. Diamo un attimo di tempo e vediamo come vanno le cose. Oh, la prima opinione che vi abbiamo fatto sentire, l'ascoltatore che dice, che parla delle leggi naturali, del padre, madre, l'omosessualità, la replica scritta da un ascoltatore, da del cavernicolo, come vedete l'argomento un po' divide, eh? Soprattutto quello sulla legge sull'omofobia. Ne parleremo dopo, parleremo di questo tema. Se l'Italia, come vi dicevo, quello che ci chiediamo, se l'Italia è un paese omofobo, se c'è bisogno di una legge come quella della quale abbiamo parlato ieri con il relatore del PD, Alessandro Zan, oppure no, in seguito anche ragionando anche sui fatti di Caivano, sui quali oggi trovate anche molto materiale sui giornali. Oggi che è martedì 15 settembre, sono le 7:21 minuti e questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia. E i titoli principali dei giornali sono, come potrete ben immaginare, sulla scuola, che è senza banchi e senza prof, stando al titolo della Repubblica, nella quale si va con gioia e disagi, scrive il Corriere della Sera. Il giornale si dedica invece alla vicenda della Lega, ci arriviamo tra un attimo. A scuola con poche precauzioni è il titolo del Messaggero, tante difficoltà ma la scuola riparte, La Stampa, le 100.000 cattedre ancora vuote, il Quotidiano Nazionale, a scuola accade di tutto, bimbi a lezione in ginocchio è il titolo di Libero. Assenze ingiustificate è quello del Manifesto, a lezione di Unità, Avvenire, senza insegnanti e senza banchi ma il governo la chiama scuola è il titolo della Verità. Poche variazioni sul tema, Solo il Fatto Quotidiano che apre sui soldi della Lega, Lega altro guaio, 18 milioni sospetti. E il giornale che parla di una perizia che smonta le accuse alla Lega sul capannone comprato a 800.000 euro che ne vale, secondo questa perizia, 820.000. Da questo capannone è partita tutta l'inchiesta. Ci arriveremo tra un attimo. Il Sole 24 Ore pone l'accento su una questione preoccupante, i rischi per 160 miliardi di crediti delle banche, una mina potenziale che può esplodere nei bilanci delle banche, sono le moratorie alle imprese in base ai decreti Cura Italia e liquidità, perché il 30 settembre decade la deroga dell'autorità bancaria europea alle banche per non riclassificare i prestiti. Ed eccoci, eccoci. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso. E in queste ore sarà capitato, soprattutto a chi frequenta i social network, ma anche a chi è un abbonato a Netflix, di vedere questa campagna che è partita un po' dappertutto sulla cancellazione di Netflix. Perché? Perché Netflix ha pubblicato un film del quale si sta molto discutendo, che si intitola Cuties, ed è il manifesto, sono delle ragazzine di 11-12 anni, insomma delle bambine sostanzialmente, vestite in minigonna, con l'ombelico scoperto, che fanno delle gare di twerking, e dunque su questo si stanno concentrando un po' di commenti nella giornata di oggi. Due in particolare ve ne voglio segnalare, perché il film in realtà tratta di tutt'altro. Però vediamo prima la posizione contraria a questo prodotto di Netflix, e la troviamo a pagina 2 del quotidiano nazionale. Le bimbe sexy in TV, l'autogol di Netflix, altro che scuse. Netflix che ha perso in seguito a questa campagna 9 miliardi di euro in borsa. Scrive Davide Nitrosi: sotto la vernice del politicamente corretto si può nascondere di tutto, come nel caso di Cuties, serie diffusa su Netflix, dove protagoniste sono bimbe di 11 anni, appassionate di danza, trasformate in donne precoci, con abiti minuscoli, shorts, calze a rete, tutto l'armamentario da moderne lolite. Le ragazzine ballano e twercano, ovvero scuotono il loro lato B, manco fossero Jennifer Lopez, con la telecamera che indugia sui corpi. Come direbbe Totò, scrive Davide Nitrosi, ma mi faccia il piacere, di fronte alla pioggia di critiche dal mondo e al crollo di borsa, la piattaforma se ne è uscita con una difesa imbarazzante. Cuties è un racconto sociale contro la sessualizzazione dei bambini, una storia potente sulla pressione che le giovani ragazze subiscono sui social media e dalla società man mano che crescono. E dunque Nitrosi boccia tanto la difesa di Netflix quanto il film, mentre invece Mattia Feltri in prima pagina sulla Stampa ci dà un'altra versione. Occhio allo spoiler, sta per arrivare lo spoiler. Burca di casa nostra è il titolo di Mattia Feltri. In questa tendenza a caricaturizzare il peggio, diamo il benvenuto a Cancel Netflix, nuovo movimento del bene col purificatore obiettivo appunto di cancellare Netflix. Sta andando a benone, ieri nel mondo erano state raccolte 700.000 firme, la protesta è costata all'emittente 9 miliardi di perdite in borsa, e parla di questo film, Cuties, che in Francia si chiama Minigonne, in Italia Donne ai primi passi. Il regista è un regista di origini senegalesi, Maimouna Doucouré, o più probabilmente è colpa della locandina, dove si vedono bimbette di 11 anni impegnate in una coreografia in abiti succinti. A colpo d'occhio, mercimonio di corpi infantili, sessualizzazione, pedofilia, eccetera. A colpo d'occhio, attualmente il tempo medio per emettere sentenza è inflessibile e irrimediabile. Infatti ho visto il film e i casi sono due: o i paladini l'hanno visto e non hanno capito nulla, o non l'hanno visto proprio. Sarebbe quasi augurabile. La storia di Amy, ragazzina di Parigi costretta dalla famiglia a occultarsi sotto castigati vestiti tradizionali, la famiglia musulmana è intransigente, lei per reazione si associa ad amichette precoci e discinte, ma durante un'esibizione di ballo pubblica prova vergogna di sé, corre in lacrime a casa fra gli straccetti che indossa e la palandrana materna, opposte in posizioni di opposte culture, sceglie sobriamente jeans e maglietta, un messaggio persino banalotto, ma è troppa fatica affrontare anche il banale. Prevale l'ansia di menare il peccatore, che in questo caso Netflix, seppure innocente, si affretta a chiedere perdono. Neanche tanto metaforicamente, ci siamo infilati un burka e vogliamo infilarlo a tutti. Buon punto, a mio giudizio, di Mattia Feltri, soprattutto sulla tendenza che abbiamo e alla quale siamo abituati anche dalla nostra vita sui social a dare un giudizio immediato, troppo rapido su tutto. Appena vediamo qualcosa, ci basta avere un titolo di giornale per commentarlo senza nemmeno approfondire, senza nemmeno vedere quant'è più larga alla fine la storia. E a proposito di questo, c'è un movimento del quale ci parla il Messaggero a pagina 13, lo racconta Francesca Pierantozzi, che, e attenzione, scusate, questo discorso di Netflix che è un discorso che apparentemente è marginale, riguarda solamente un film, ha a che fare con appunto la vicenda di queste cuties, la vicenda delle minigonne, del twerking e delle ragazzine, della sessualizzazione delle ragazzine, è un argomento in realtà più largo che ha a che fare con tutti noi, come interagiamo con le notizie e come interagiamo e come reagiamo all'informazione. A proposito di questo, ve lo do come elemento perché rientra un po' in quest'ambito, a pagina 13 del Messaggero con Francesca Pierantozzi, il racconto della battaglia che stanno conducendo le ragazze francesi, un po' più grandi, quelle del liceo. Perché? Perché e succede questo, che in alcune scuole stanno vietando le minigonne. Il pantalone è la vita troppo bassa, il top è troppo corto, la gonna è troppo mini, gli short non ne parliamo nemmeno, troppo tutto. Abiti indecenti, provocanti, in una parola inappropriati, quindi proibiti, vietati a scuola e preferibilmente anche fuori, per strada, con gli amici, sui mezzi pubblici, che non si sa mai. Meglio non andarsela a cercare, ironizza Francesca Pierantozzi. La ribellione ai diktat vestimentari è partita anche questa volta dai social. Prima TikTok, ragazze, il 14 settembre tutta scuola vestita indecenti, poi Instagram, poi Twitter. In Francia lunedì 14 settembre e Libération 14 settembre si sono trasformate ieri in un grido di guerra di ragazzine e ragazze dalle medie ai licei, che a frotte si sono presentate ai portoni delle scuole con abiti ritenuti quasi tutti fuori legge dai regolamenti scolastici e da un sedicente buon senso. La sfida ai divieti, tra l'altro, ci racconta Francesca Pierantozzi, è stata benedetta dal governo. In classe sono banditi solamente i segni religiosi. Una pausa. A tra poco, ci ritroviamo. Molte cose, come vi dicevo, la questione dei soldi della Lega, un po' di politica, ma anche questa inchiesta del Foglio insieme ad una serie di media internazionali che dipinge uno scenario preoccupante, uno scenario di schedatura di 4.500 persone avvenuto da parte dei servizi di intelligence cinesi. Pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. I ragazzi hanno cominciato la scuola ieri, la grande fa quinta liceo ed è in una classe pollaio, dove forse non ci sono nemmeno le misure di sicurezza necessarie. Il piccolo fa lezione un giorno sì e un giorno no da casa, facendo terza liceo. Ed ecco alcune delle vostre storie della prima giornata di scuola, il primo giorno di scuola, per chi ha iniziato naturalmente, altre regioni partiranno più avanti. Il Friuli Venezia Giulia domani, per esempio, altre il 24 dopo le elezioni. Veniamo, direi, alla politica. Se volete continuare a mandarci voci, WhatsApp audio, il 349-238-6666. Poi a partire dalle 8 c'è l'800-24-0024. Se volete intervenire in diretta, ovviamente su tutti gli argomenti, quello sul quale ci concentreremo oggi è l'omofobia. Prenderemo il caso di Caivano e partiremo da là per ragionare un po' intorno a questo, intorno alla necessità di una legge, intorno al come vive il mondo LGBT in questo paese. L'assalto alla Lega, così lo definisce il giornale. Siamo a pagina 2, il giornale che porta un documento che sostiene avere in esclusiva. Come ricorderete, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, l'inchiesta sulla Lega parte dalla compravendita di un capannone che sarebbe passato ad una società di Comodo per 400.000 euro e poi rivenduto alla Lombardia Film Commission, che è della regione Lombardia, per 800.000 euro. Insomma, ci si sarebbero lucrati sopra sostanzialmente 400.000 euro. Ebbene, il giornale ci racconta che c'è una perizia che smonterebbe questa accusa. Secondo la perizia firmata dai due membri della RIX, l'affare realizzato dalla Film Commission che secondo la procura si tradusse in sperperi e sparizioni di denaro pubblico, fu invece un buon affare. Il capannone di Cormano alle porte di Milano, divenuto la sede operativa della commissione, vale, secondo la consulenza richiesta dai nuovi vertici della commission, tutti gli 800.000 euro che venne pagato, racconta Luca Fazzo appunto sul Giornale. La perizia porta le firme di due membri del Royal Institution of Chartered Surveyors, l'organismo fondato a Londra nel 1868 e munito del marchio reale con decreto di Re Giorgio nel 1946, ente benemerito che si occupa di garantire stime autorevoli dei beni e dei terreni. È un dettaglio cruciale, scrive Fazzo, quello del valore effettivo del capannone, perché nella ricostruzione dell'accusa l'acquisto del capannone nasce e si sviluppa per succhiare alle casse pubbliche un gruzzolo da centinaia di migliaia di euro. E però ormai il punto non è più questo, cioè non è più il punto di partenza dell'inchiesta, ossia questo capannone, ma sono i soldi e i fondi della Lega, perché arrivati i magistrati ai due commercialisti, ai tre commercialisti coinvolti, da costoro sono partiti per cercare di ricostruire i flussi di denaro. Lo racconta bene La Repubblica a pagina 10. Tra le ipotesi che si stanno vagliando c'è l'incrocio con la famosa vicenda dei 49 milioni di euro. E dov'è questo incrocio? È nel fatto che dei soldi transitati, appunto, sarebbero transitati verso Panama per sottrarli ai magistrati che stavano indagando sui 49 milioni di euro. Cioè, li facciamo sparire dall'Italia, non facciamo più trovare dove sono. Nel 2013 la Lega Nord, raccontano Sandro De Riccardis e Giuseppe Filetto su Repubblica, pagina 10, studia come creare un trust sul quale far confluire il patrimonio del partito, svuotare i conti correnti bancari, in modo che in caso di azioni giudiziarie i creditori e soprattutto i PM che indagano sulla sparizione dei 49 milioni di euro della truffa allo Stato messa in atto dall'ex tesoriere Francesco Belsito e dall'allora segretario Umberto Bossi non trovassero nulla. E c'è un'intercettazione che racconta tutto nell'ambito dell'inchiesta breakfast della direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria. In questi giorni torna attuale e su di essa lavora la Procura e la Guardia di Finanza di Genova, che ricorderete sono quelle che indagano sui 49 milioni. Il verbale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano è rimasto secretato, ma è stato depositato il 7 novembre del 2019 ed è agli atti nel procedimento sulla compravendita del capannone fatto dall'immobiliare Andromeda e ceduto alla Fondazione Lombardia Film Commission. Il tema qual è? Il tema è un passaggio appunto di 18-19 milioni di euro, 18 milioni e 744 mila euro che sarebbero transitati verso varie vie e sarebbero finiti a Cipro e poi alle Cayman. E questo è un fronte dell'inchiesta. Vedremo che cosa ne emergerà e se ne emergerà qualcosa anche in termini politici. Salvini ha detto su questo fronte di non temere nemmeno per l'impatto che può avere sulle regionali. Le regionali e il loro impatto. Oggi, visto che siamo su questo, visto che siamo sulla politica, ce ne parla Roberto Dalimonte, il professor Roberto Dalimonte, sul Sole 24 Ore, a pagina 8, e dice che, guardate, che sia l'esito del referendum, sia quello delle regionali, di impatto sul governo non ne avranno un granché. Che impatto sulla tenuta del governo può avere l'esito delle prossime elezioni regionali e del referendum costituzionale? L'ipotesi più accreditata è che un collegamento ci sia, quindi che il governo rischi. La nostra tesi è che, indipendentemente da cosa succederà il 21 settembre, il governo Conte continuerà a sopravvivere. Tutto al più potrebbe esserci un rimpastino, che è quello che ha detto Andrea Orlando, il vice segretario del PD, domenica scorsa a Maria Latella. Perché scoppi una crisi di governo, occorre che il PD o i 5 Stelle o Italia Viva decidano di mettere fine all'attuale alleanza. In teoria la crisi potrebbe essere il risultato dello sfaldamento della esile maggioranza su cui poggia il governo al Senato, ma non la riteniamo un'ipotesi plausibile. Eventuali nuove defezioni dai 5 Stelle non si traducono necessariamente in possibili voti di sfiducia. Gioca sempre, scrive Dalimonte, l'istinto di sopravvivenza. diversa. Più plausibile invece che sia l'uno o l'altro dei due maggiori partiti di governo, oppure Renzi, a provocarla. Ma perché dovrebbe farlo? E poi c'è il referendum. Si è detto, se per caso dovesse vincere il no, sarebbe una pesante sconfitta per il Movimento 5 Stelle e questo potrebbe metterlo in crisi. Quale sarebbe l'effetto sul Movimento, si chiede Dalimonte? Potrebbe essere questo il motivo della fine della sua esperienza al governo e quindi della crisi? Non lo crediamo. È un fatto noto che gli attuali parlamentari dei 5 Stelle si sentono a proprio agio nelle posizioni che ricoprono. Sanno che in caso di elezioni anticipate pochi di loro verrebbero rieletti, tanto più che la vittoria del no sarebbe un altro inequivocabile segnale che il vento dell'antipolitica, grazie al quale il Movimento ha costruito la sua fortuna elettorale, oggi non tira più come una volta. Ergo, Conte su questo versante può stare tranquillo. Così Roberto Dalimonte. Vi voglio segnalare anche questo, perché noi diamo per scontato che andremo tranquillamente col massimo della serenità a votare per le regionali e il referendum, ma mancano gli scrutatori, ce lo racconta Libero a pagina 8, e non è che mancano, perché di solito se ne trovano sempre, anche un po' dappertutto. Quest'anno invece la paura del Covid blocca tutti quanti. Scrutatori in fuga per paura del contagio, seggi a rischio, scrive Claudia Osmetti e porta qualche esempio. Solo nel comune di Savona si registrano 55 lettere di defezione. Mi spiace, non posso. I seggi in città sono 61, gli scrutatori 244, praticamente uno su cinque ha dato forfè. Così come un fatto che su 1869 nominati a Palermo i rinunciatari già sostituiti sono quasi 600, un esercito. A Bari manca la metà dei 345 presidenti di seggio. È una settimana dall'appuntamento elettorale e gli uffici competenti stanno avviando le seconde chiamate. Tra l'altro, la città metropolitana pugliese aveva annunciato a inizio mese l'introduzione di almeno 3 seggi mobili, però appunto non si trovano volontari. Su tutti i giornali, oggi vi vorrei risparmiare su questo, troviamo cronache dalla scuola, compresa campeggiante ovunque, la foto degli studenti in ginocchio sui banchi, davanti ai banchi in Liguria, perché non c'erano le sedie. Tutti i giornali sono pieni di racconti e micro racconti da Nembro, dal Sano, dalla zona, dall'ex zona rossa, e poi come è andata a Roma, come è andata a Milano, come è andata a Torino. Valgono più i vostri racconti, quelli che ci mandate al 349-238-6666, perché valgono tanto quanto quelli che trovate sui giornali. Quello su cui invece vi voglio portare, prima di andare alla pausa, e poi avremo un ospite col quale parleremo di tasse, o meglio di accise, quello su cui vi voglio portare è l'importante inchiesta che pubblica oggi il Foglio, inizia a pagina 1 ed è un lungo pezzo che prosegue nelle pagine interne, a firma di Giulia Pompili, che è la persona che si occupa di cose dall'Estremo Oriente, in particolare dalla Cina. Una società privata raccoglie informazioni dettagliate all'estero su politici, sui loro familiari, su persone di interesse pubblico, membri delle istituzioni e criminali. Tutto per conto di Pechino e anche in Italia. È quanto emerge dall'analisi di un mastodontico database ottenuto dal Foglio insieme con altre testate internazionali, il Telegraph, il Washington Post, l'Indian Express, il Globe and Mail, la ABC e l'Australian Financial Review. È uno strumento a disposizione di Pechino, si chiama Oversea Key Information Database, costruito dalla società Zhenhua nella città di Shenzhen, il cui sito internet chinarevival.com da qualche giorno sembra essere offline. E questa Zhenhua, che lavora per l'intelligence cinese e istituzioni come il Ministero della Sicurezza di Stato di Pechino, ha raccolto informazioni su 400, ci sono 4.500 tra nomi e cognomi. La raccolta dei dati italiani sembra iniziare dal 2006, ben prima che la società esistesse. I nomi legati all'Italia sono divisi in 3 categorie: le persone politicamente esposte, quindi i politici genericamente intesi, ma anche per esempio i presidenti delle autorità portuali, sulle quali autorità portuali, come ben sappiamo, la Cina ha un interesse, le persone legate alla difesa come gli ex capi di Stato Maggiore, tanto per fare un esempio, ci sono gli alti prelati del Vaticano, e poi i parenti o stretti collaboratori schedati con tanto di foto e un numero identificativo che probabilmente serve a riconnetterli ad un altro database. Tra questi, tanto per darvi un'idea, c'è la figlia diciottenne di un ex sottosegretaria del Partito Democratico, questo per darvi la misura, oltre che mogli, fratelli e figli, appunto, dei politici. Sarà una cosa che sulla quale ovviamente sarà da discutere, sulla quale ci vorranno delle risposte. Intanto il traffico. Negli ultimi 5 minuti di questo spazio vi vorrei portare su un tema che in realtà abbiamo iniziato ad affrontare ieri, la rimodulazione delle accise sul diesel, che qualcuno ritiene l'arrivo di una tassa occulta. Ne abbiamo parlato ieri con il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, il quale ci ha detto: non aumenteremo le tasse, compenseremo un passaggio dal no green al green. Quindi si parla di un livellamento, ossia tutto quello che incasseremo di nuovo, aumentando le accise per esempio sul diesel, avrà una compensazione di qualche tipo per passare a tecnologie più ambientalmente meno dannose. E poi ci ha detto anche questo. Noi nelle cosiddette audizioni di cui si è parlato in questi giorni abbiamo sentito tutte le associazioni ambientaliste, come prevede la norma, ma anche l'Unione Petrolifera per esempio, che le dico anche con grande piacere, non è che ha alzato le barricate, ha detto ci sta bene, vi faccio delle controproposte, su quello stiamo lavorando assieme. Caro Claudio Spinaci, presidente dell'Unione Petrolifera, quando avete sentito il ministro che diceva questa cosa a 24 mattino, ieri avete fatto un comunicato stampa, avete detto no, vabbè, non è che siamo proprio d'accordo sul fatto che aumentino le accise sul diesel, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Ma diciamo che noi abbiamo detto esattamente il contrario, cioè noi siamo stati chiarissimi sia nell'audizione del 26 maggio che poi nella documentazione che abbiamo inviato durante la fase di consultazione, abbiamo detto che non riteniamo condivisibile l'approccio seguito, perché non lo riteniamo né equo né socialmente e economicamente sostenibile per molti consumatori, che di fatto subirebbero un aumento di fiscalità. Naturalmente non solo di trasportatori, ma per esempio tutti i lavoratori autonomi, tutti quegli utenti che usano la macchina per lavoro e che difficilmente recupererebbero poi eventuali incentivi che si troverebbero a finanziare. E abbiamo detto questo per un motivo molto semplice, che in Italia il livello di tassazione sul carburante è già il più alto d'Europa, sia sulla benzina che per il diesel, e che quindi non c'è spazio. In particolare per il diesel, alcune considerazioni che poi accompagnano questa motivazione di incremento d'accisa sono assolutamente superate, come la emissione di inquinanti locali, per i quali molti studi e soprattutto test su strada hanno dimostrato che le motorizzazioni più recenti, le cosiddette Euro 6 di Temp, sono praticamente a emissioni zero o bassissime. Quello che dite voi in sostanza è che ci vorrebbe un bel incentivo tosto per il cambio del parco automobilistico. Ma guardi, noi infatti abbiamo fatto alcune proposte. Innanzitutto la prima, che riguarda proprio la questione delle accise, è quello di armonizzarci con l'Europa, perché questi sussidi sono stati dati via via negli anni alle categorie proprio perché l'elevato livello di tassazione sui carburanti non gli consentiva di competere con i loro competitors europei. Quindi, siccome nel 2021 ci sarà la revisione, è in corso una revisione della tassazione europea, va armonizzata con quello che sarà l'indirizzo europeo, che dovrebbe peraltro andare verso l'utilizzo di quei criteri ambientalmente sostenibili. Però da questo punto di vista è chiaro che la questione dell'inquinamento, la questione anche della riduzione forte dei componenti climalteranti si ottiene con il ricambio del parco auto, con qualsiasi motorizzazione attuale, perché una Euro 6, Euro 6 D-Temp, diesel eccetera, emette il 90% in meno di una Euro 0. E noi in Italia abbiamo ancora circa 14 milioni di veicoli che sono pre-Euro 4. Quindi è lì che dobbiamo andare a incidere, e questo è il tipo di incentivazione che andrebbe fatta. Secondo voi come finirà? Ma secondo noi il governo ha già deciso, ed è per questo che, come in subordine, abbiamo detto: qualsiasi manovra fate, fatela a saldo zero per i consumatori. Questa è stata più che altro una richiesta di una decisione che, mi sembra, dalle parole del Ministro, in un modo o nell'altro sia già stata presa, dicendo peraltro che esistono i 19 miliardi. I 19 miliardi non esistono perché oggi non vengono pagati, perché chi utilizza i sussidi non li paga quei 19 miliardi. Quindi è piuttosto evidente che quando verranno pagati con eventuali cancellazioni dei sussidi ci sarà un aumento di accisa sui carburanti. Senta Spinacci, com'è l'interlocuzione col governo? Ci riuscite a parlare, non ci riuscite a parlare? Riusciamo a parlare attraverso atti formali, attraverso appunto audizioni formali, attraverso... Cioè voi un confronto diretto col ministro... Non ha... Io non ho mai parlato col ministro di queste cose. Mai parlato? Ma ci avete provato oppure no? Ci abbiamo provato, ma evidentemente c'è una interlocuzione formale che funziona e difficilmente con contatti diretti. Difficilmente con contatti diretti. Quindi finirà, lei dice, alla fine che alzeranno le accise. Ma mi sembra che tutto porti a questo, insomma, abbiamo sentito le parole del ministro che dice appunto che c'è concordia tra più ministeri, che c'è questa intenzione, sì. Però io vorrei semplicemente che si dicano le cose come stanno. Sì. Che voi non siete d'accordo, che voi non siete d'accordo. Il consumatore di prodotto gasolio, l'automobilista diesel pagherà di più il gasolio. Questo è il punto essenziale. Grazie Claudio Spinacci, presidente dell'Unione Petrolifera, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. C'è GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli. 800 24 00 24, se volete dire la vostra, intervenire in diretta. Parleremo, come vi dicevo, di omofobia, ma poi sapete che con Paolo Mieli si può parlare di tutto, anche un po' di politica se volete. Ci siamo, iniziate a prenotarvi da adesso, va, che il centralino è aperto. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.